tutti noi nel sedere. Umano siamo comunque noi a scegliere la mano che prenderemo insieme, e non avremo guai, 100% siamo, 100% siamo fratelli e sorelle, insieme ai nostri danni, fratelli e sorelle, insieme ai nostri danni. Un cuore solo batte, ma però c'è rumore, perché amore no, paura del dolore. 100% aspetto, ti voglio, ti sento, ti stringo sul mio petto, non me ne frega niente, io mi il tuo sangue, che di colore rosso in mezzo al mio, cambia in mezzo al mio, cambia in mezzo al mio, cambia in mezzo al mio, cambia. Cento per cento avviso, anche se non lo vuoi, non abbiamo tutti lo stesso viso, e le generazioni che seguiranno domani saranno così mischiate, si innamoreranno, si innamoreranno, si innamoreranno, si innamoreranno.